Ogni pugno contro la parete è più di una volontà di menare persone ridirezionate ad oggetti e rassegnazione nella ricerca del metodo. Mi sta volontà di fare qualcosa in ogni caso. Tecnica della botta sull'elettrodomestico. Pugno contro la parete è la stessa forma di violenza che si ribella contro l'esistenza e involontariamente attira attenzioni più di molte altre azioni. Mista d'urla e pianti è l'ululato dell'uomo che già nei lupi serve a richiamare i branchi. Questo beat è violento, spacca. Affermazioni come queste spiegano perché ululando quei sample gli uomini si riuniscono in disco e feste. La nostra musica da pugni contro le pareti, quindi l'opposto delle rivoluzioni. Anche se nasce da simili insoddisfazioni, vorrei che i politici vietassero tutta la musica. Così forse vedrei rivoluzionari uccidere in nome della musica, invece di sentire una musica che uccide chi la fa e chi l'ascolta. Ma spesso i politici sono furbi, la libertà che lasciano di esprimersi artisticamente è un'occasione di ribellione, ma sicuramente quella più innocua. Inni rap alla rivoluzione sono solo falsi bandi autopromozionali. Su, smettete di fare ascoltare musiche preparate, la rivoluzione che tanto volete di cui rappate. Io non voglio rivoluzioni, per questo non uso quei paroloni, ma vorrei uccidere chi li usa e quindi è meglio se continuo a far canzoni. Se anche avessi un piano rivoluzionario non lo sbandirerei di certo ai 420. Ah, a proposito di rivoluzioni, manifestazioni, manifesti, feste.